di Dario Ricci. It has been said that I have two alternatives: either go to jail or go to the army. But I would like to say that there is another alternative, and that alternative is justice. Il no di Muhammad Ali alla leva militare in Vietnam, il pugno nero alzato al cielo da Tommy Smith e John Carlos ai giochi di Città del Messico 1968. Colin Kaepernick che si inginocchia per protesta durante l'esecuzione dell'inno americano. Bastino questi tre fotogrammi a ricordarci che sport e battaglie per i diritti civili hanno giocato spesso la stessa partita negli Stati Uniti. E anche ora che l'America è in fiamme dopo l'uccisione di George Floyd, le stelle afroamericane dello sport scendono in campo e ancor più spesso in strada. Dai tweet e le magliette di LeBron James all'ex campione di football americano Jerome Carter, alla tennista Naomi Osaka, i pugni dei campioni tornano a levarsi al cielo, memori dei tempi in cui se vincevano erano considerati americani, se perdevano dei semplici negri. Allora come oggi quei pugni contro il cielo testimoniano la voglia di giustizia e verità. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Ne parliamo oggi con due ospiti che ben conoscono la realtà degli Stati Uniti, dello sport a stelle strisce e delle tensioni sociali e razziali che lo attraversano. Il primo è uno storico dello sport, cineasta e regista, che ha di recente realizzato proprio un documentario dall'emblematico titolo di Negri Sport in the USA, che ripercorre il lungo intreccio tra sport e questione razziale negli Stati Uniti. Francesco Gallo, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Ben ritrovato anche a te, ciao Dario. Francesco, campioni dello sport in strada per i diritti civili dopo le violenze della polizia contro un afroamericano. Oggi è il caso di George Floyd, ma vicenda certo non nuova negli States, come ben racconti nel tuo documentario, vero? E purtroppo è la storia che si ripete sempre uguale a se stessa. Basti pensare che tra i riots, come vengono chiamati in America, appunto le rivolte, le sommosse degli afroamericani, poi sempre sedate da parte della polizia americana nel sangue, sparando sulla folla, tra le più celebri, anche le più sanguinose, c'è quella seguita alla vittoria di Jack Johnson, il primo campione dei pesi massimi di pugilato afroamericano. In seguito alla sua vittoria, appunto, scoppiarono queste rivolte in tutto il paese e morirono attraverso linciaggi oltre 23 afroamericani. E il numero di incendi, di rivolte, di morti è stato ultimamente soltanto associato alle rivolte seguite all'assassinio di Martin Luther King. E diciamo che in questi giorni, anche in queste ore, stiamo vivendo delle scene simili per l'assassinio di George Floyd, che può essere considerato un figlio, diciamo un nipote di Rodney King, ovvero sia l'afroamericano che è stato malmenato e ucciso nel 1991 da parte della polizia, alcuni poliziotti, davanti l'occhio delle telecamere. E adesso, diciamo, le malefatte della polizia americana non possono quasi ormai più scappare all'occhio vigile di telecamere o di smartphone. Tanti campioni icona di questa battaglia per i diritti. Su tutti direi Cassius Clay, Muhammad Ali, la leggenda dei pesi massimi, della boxe e dello sport mondiale, che pure all'inizio della sua carriera non sembrava avere interessi politico-sociali così spiccati. Sì, è vero. Ad esempio, in seguito alla vittoria della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma, qualche giornalista gli aveva chiesto un po' della questione razziale in corso negli Stati Uniti e lui in quell'intervista quasi difese gli Stati Uniti dicendo che non era compito suo occuparsene, ma che c'erano sicuramente dei politici più in grado di lui di risolvere la situazione. Poi ovviamente fu celebre il suo ritorno negli Stati Uniti, in cui non venne accettato all'interno di un ristorante, e poi la leggenda secondo cui lanciò la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi in un fiume. E poi appunto la sua decisione di convertirsi all'Islam, di cambiare il nome da Cassius Clay Muhammad Ali, non solo fu religiosa ma fu anche politica, e da quel momento, come sappiamo tutti, è diventato una voce, o meglio la voce, dagli anni 60 fino a qualche anno fa, insomma, dei diritti civili, del movimento dei diritti civili degli afroamericani. Poi anche per Ali la svolta col rifiuto di andare a combattere in Vietnam. Quando lui rifiutò l'arruolamento per partire come soldato in Vietnam, riuscì anche a pronunciare una delle frasi più incendiarie dell'epoca, dicendo appunto: io non ho nulla contro questi Viet Cong, loro a me non mi hanno mai chiamato negro, perché dovrei andare a combattere contro dei gialli soltanto per far piacere a dei bianchi che invece a noi neri vogliono tenerci appunto in catene. Quindi Muhammad Ali in quel momento è diventato il simbolo di questa protesta, e campioni di oggi come LeBron James e tanti altri hanno avuto sicuramente la strada spianata da parte di Ali, che a sua volta l'aveva avuta da Jackie Robinson, e anche oggi a loro modo, con nuovi mezzi di comunicazione come appunto Instagram e Twitter, hanno l'occasione di portare avanti ancora questo messaggio che a distanza di 100 anni o di 50 anni ancora bisogna di essere urlato a gran voce. Tra i campioni afroamericani però non pochi coloro che cercarono l'integrazione, anzi l'accettazione da parte dell'establishment bianco a ogni costo. Un esempio illuminante arriva ancora da un altro grande del ring. Joe Louis era il pugile nero che arrivava appunto dopo Jack Johnson, di cui accennavo prima, e per poter vincere il suo staff riuscì a convincerlo e ad educarlo appunto a diventare un negro bianco, così gli dissero all'epoca, e quindi veniva appunto, lasciatemi passare il termine, ammaestrato anche dagli stessi afroamericani che ruotavano attorno a lui nello staff sportivo, insegnandogli giorno dopo giorno a non alzare mai lo sguardo in presenza di un bianco. Se quando mandava a tappeto un pugile bianco non doveva esultare troppo, non doveva andare a donne, non doveva compiere smargiassate come il suo predecessore Jack Johnson, insomma doveva cercare di fingere di non essere un negro, usando appunto le parole che gli dicevano all'epoca. Eppure forse l'emblema di questa attitudine, Francesco Gallo, lo troviamo soprattutto sotto canestro, vero? Su tutti direi Michael Jordan, lui è uno dei più grandi atleti della storia ed è anche un atleta afroamericano che da questo punto di vista non è stato mai o quasi mai dalla parte delle proteste degli afroamericani. C'è un episodio abbastanza celebre di quando alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, gli avevano chiesto di appoggiare un candidato di colore al Senato, che ovviamente era democratico. Lui si rifiutò, la domanda da parte dei giornalisti: come mai non lo hai voluto appoggiare? Jordan, che in quel momento era il simbolo della Nike, disse: perché le scarpe della Nike le acquistano anche i repubblicani. Oggi Michael Jordan in queste ore ha rilasciato ovviamente delle dichiarazioni a favore del movimento e quindi contro le violenze della polizia, però rispetto ad altri campioni come Tommy Smith e John Carlos, Muhammad Ali o Jackie Robinson, se vogliamo andare più indietro, non è stato certamente un'icona del movimento dei diritti civili. Ma detto a onor di cronaca che proprio lo stesso Michael Jordan ha poi fatto in questi giorni una super donazione, un super stanziamento di 100 milioni di dollari in 10 anni a favore proprio delle associazioni che si battono per i diritti civili negli Stati Uniti. Ma sempre sotto canestro troviamo pure un altro campione straordinario, capace di inventare addirittura un gesto tecnico sublime e dal profondo significato di contestazione civile. Il famoso ganciocielo, lo skyhook, il più immarcabile tiro di tutti i tempi, inventato da Kareem Abdul-Jabbar, è stato senz'altro una risposta di tecnica sportiva ma anche di creatività, e una risposta che lui da afroamericano, e che proprio come Ali aveva deciso di cambiare nome e religione da Louis Newsangle Alcindor a Kareem Abdul-Jabbar, inventò proprio quando i bianchi della NCAA decisero di mettere al bando le schiacciate con le quali lui riusciva ad aggiudicarsi le vittorie di tante partite, perché avevano deciso di ritenerle soltanto uno sfoggio di supremazia fisica da parte degli atleti afroamericani. Invece lui ha inventato questo pregevole tiro con cui riusciva ad andare a canestro, e che poi ha cambiato anche la storia della pallacanestro. E lui quindi fu rivoluzionario due volte in quell'epoca. In questa carrellata di stelle in campo, ognuna a suo modo per i diritti civili negli States, arriviamo a Colin Kaepernick, il quarterback dei San Francisco 49ers, che per protesta si inginocchiò durante l'inno americano facendo infuriare Donald Trump. Colin Kaepernick è stato al centro dell'ultima cronaca sportiva e politica, proprio in concomitanza con l'avvento di Trump, che in seguito a questo suo gesto rivoluzionario anche per i nostri giorni ha deciso e ha spinto affinché Kaepernick venisse messo fuori squadra, riuscendoci purtroppo. E proprio il gesto di Colin Kaepernick su Instagram è stato affiancato da LeBron James alla fotografia ormai diventata celebre per tutti noi del poliziotto con il ginocchio sul volto del povero George Floyd, ricordando appunto, ecco il motivo di quel gesto che ancora per tanti atleti afroamericani come LeBron James ha davvero tanto valore, e oggi anche una figura abbastanza contemporanea come Colin Kaepernick andrebbe rivalutata e raccontata soprattutto ai ragazzi che non lo conoscono. È una delle storie che infatti racconti nel tuo splendido documentario intitolato, lo ricordiamo, Negri, Sport in the USA, al quale auguriamo il successo che merita. Intanto, Francesco Gallo, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te Dario e grazie a tutti i radioascoltatori. Ora qualche istante di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia. Olimpia. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Allora, un momento difficile, abbiamo visto in diretta distruggere negozi, distruggere vetrine, quella non è stata la parte sicuramente felice della protesta. È una protesta che è molto importante, è fondamentale cambiare, fondamentale ascoltare, che il governo e che tutti ascoltino i cittadini, ascoltino e guardino bene quello che è successo, perché le cose devono cambiare. La testimonianza di Danilo Gallinari, stella degli Oklahoma City Thunder nella NBA, in merito all'uccisione negli Stati Uniti dell'afroamericano George Floyd da parte della polizia a Minneapolis e alle successive proteste e violenze in molte città degli States. Continuiamo a parlarne oggi qui a Olimpia con un amico e collega della Gazzetta dello Sport, profondo conoscitore dello sport e della società a stelle e strisce. Riccardo Pratesi, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Ciao, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Riccardo, sorpreso da quanto accaduto negli Stati Uniti con il caso George Floyd? Guarda, io ho vissuto negli Stati Uniti dal settembre 2014 a settembre 2018 in tre stati diversi, in Texas, in California e appunto a Minneapolis, quindi nel Minnesota, Minneapolis insomma, dove è successo il misfatto dell'uccisione, non se vuoi chiamarlo omicidio, di Floyd, l'afroamericano, ma in realtà non sono sorpreso più di tanto in assoluto da quello che è successo. Ti dico, gli Stati Uniti sono un campo minato e a volte basta una miccia innescata, in questo caso l'episodio di Floyd, per riaccendere quel campo minato. Perché qui si parla di razzismo, purtroppo negli Stati Uniti, Il razzismo c'è come c'è in tutto il mondo, ma è la punta di un iceberg. Ci sono delle sperequazioni sociali negli Stati Uniti enormi, c'è una forbice incredibile tra i pochi che stanno veramente molto bene dal punto di vista economico e finanziario, i ricchi, e una fascia di popolazione significativa, nutrita, che è povera. E per povera intendo che vive, fa la fame, vive sotto un livello di sussistenza. Ecco, tu che ci hai vissuto, che tipo di città è sotto il profilo sociale Minneapolis? Guarda, Minneapolis è una città bianca, caucasica prevalentemente, ma devo dirti, è una città democratica dal punto di vista politico, ma è una città che secondo me non ha un razzismo particolarmente spinto. Nei 12 mesi in cui ci ho vissuto io stavo in un quartiere medio-basso come tenore di vita, anche se abitavo ai confini di downtown, del centro città. Devo dirti che è una città, Minneapolis, che addirittura valorizza la diversità. C'è una settimana di eventi relativi al gay pride o a tutto quello che lo poteva circondare come accettazione di un concetto di diverso, e in città ci sono stati cortei, show, bandiere, quanto si voglia. Quindi è una città comunque aperta. La realtà, per collegarmi a quello che ti dicevo io, è che le sperequazioni sociali così forti, così acuite da un sistema in cui gli ammortizzatori sociali sono veramente minimi, comporta che siano le minoranze quelle che risentono di più delle disparità sociali, fino a diventare quasi cittadini di serie B. Negli anni trascorsi in America hai conosciuto anche la polizia e le sue modalità, diciamo così, peculiari di intervento. Sono stato fermato una volta a San Antonio in Texas da una poliziotta che era assolutamente fuori servizio, era assolutamente su una macchina, su un veicolo privato e non su una macchina della polizia, eppure sono stato fermato su una highway e insomma con la pistola tra virgolette sguainata, mi ha fatto mettere le mani sul volante come se fossi l'ultimo dei criminali, senza che avessi fatto assolutamente nulla. Questa è una sciocchezza, ma allora ti faccio un esempio più, se vuoi, più calzante, più significativo, una testimonianza diretta. A Sacramento, California, dove poi ho vissuto, mi sono trovato di fronte a una situazione in cui un mall, quindi c'erano due ragazzi bianchi, addirittura, cioè, biondi e con gli occhi celesti, quindi più californiani di così, si poteva confondere con afroamericani. Eppure sono stati ammanettati tre pattuglie della polizia, tre macchine, loro sbattuti sul marciapiede con le manette, lei che piangeva come una fontana, tutti al mall che guardavano questi due che sembravano chissà quali terroristi o delinquenti. Io che ero a Subway a mangiare mi sono trattenuto proprio per capire cosa stesse succedendo, e ti dico che dopo 35 minuti di perquisizione dell'auto gli hanno detto: scusate, ci siamo sbagliati, ci hanno dato una segnalazione sbagliata, questo è il caffè. E gli hanno ridato la cap del caffè. Capisci che un abuso di questo livello in Italia sarebbe successo di tutto, e lì nessuno ha detto bah, compresi due che avevano appena subito un evidente abuso. Riccardo, tu sei anche un profondo conoscitore della realtà universitaria statunitense. Ecco, queste tensioni si riverberano anche in quel mondo che per lo sport, lo ricordiamo, è l'anticamera del professionismo. I campus universitari, quelli, i famosi campus di cui si parla in Italia, si prendono ad esempio di grande efficienza, insomma gli Harvard, i Princeton. Se vuoi, io ho visto di persona Texas University, Minnesota University, per esempio Berkeley, California Berkeley, Stanford, che insomma sono quelle della Bayer, delle grandi, della New Tech, dei nuovi ricchi, delle start-up, in quella, esattamente quella zona lì della Silicon Valley. Devo dirti che sono veramente un crogiolo di studenti di radici completamente differenti. Ci sono i figli di papà, perché ricordiamoci che solo pochissimi si possono permettere in America di poter frequentare certe università, perché le rette sono clamorosamente alte. Diciamo che ogni coppia in America, dopo essersi sposata, fa immediatamente il mutuo per far studiare i figli fra 18 anni, perché altrimenti se non si mettono da parte, cominciano a mettere da parte allora i soldi, i dollari, non si riesce poi a mandarli a studiare in un certo modo. Però poi si trovano, per esempio, anche a Berkeley, e Brown, che è l'ala dei Boston Celtics, che si è esposto in questi giorni ad Atlanta guidando una marcia di protesta pacifica. Lui ha studiato proprio lì, e abbiamo ragazzi che, come raccontavo prima, tramite le loro gesta nello sport, fruendo di borse di studio da studenti atleti gratuite, sono riusciti a frequentare questi atenei che altrimenti per loro sarebbero stati impossibili per ceto, soldi, retta e per voti, e e che invece le hanno, riescono così a frequentare nel football, nel basket, rendendo il corpo studentesco molto più eterogeneo e rendendo possibile un tentativo di integrazione a 360 gradi, che però, ci torna al discorso di prima, è sempre poi al limite della combustione, no? Un fuoco che è sopito ma che in ogni momento può rinascere, far risaltare dei contrasti che sono latenti. Prevedibile, anche nel caso dell'omicidio di George Floyd, l'impegno diretto di tanti campioni afroamericani dello sport a stelle e strisce. Parliamoci chiaro, tantissimi campioni dello sport hanno background tremendi, hanno vissuto il razzismo e le disuguaglianze sociali sulla loro pelle. Per loro lo sport è stato una forma di uno strumento per riuscire a perseguire il riscatto sociale. A volte mi chiedono perché in Italia, perché in Europa gli atleti non ci mettono la faccia, perché sono mondi completamente diversi, al di là del giusto e dello sbagliato. La maggior parte degli atleti, soprattutto se parliamo di NBA, di NFL, che hanno una netta maggioranza di campioni afroamericani, al proprio interno hanno una porzione assolutamente elevata, chiaramente maggioritaria, di campioni che hanno vissuto una adolescenza di povertà, spesso anche vittime di razzismo, certo vittime di disuguaglianza sociale. In chiusura, Riccardo, ti chiedo, chi potrebbe essere oggi il campione emblema di queste rivendicazioni, la voce e il volto più autorevoli anche in prospettiva futura? Io credo che LeBron, che ha una vocazione politica estrema, io sono estrema nel senso che ha sempre manifestato radicale fin dal primo momento. Lui, io sono stato a Akron, dove è nato, dove è cresciuto, a vedere la sua high school, vedere la sua villa, ma anche il posto dove è cresciuto in povertà, onestamente, e quindi ha ben chiaro quelle che sono le differenze tra i bianchi e i neri, ma soprattutto tra chi vive tra gli agi più clamorosi da milionario come quelli suoi attuali e chi fa fatica a mettere il cheeseburger in tavola, se c'è una tavola in cui metterlo, nella quotidianità. Io credo che lui possa, in un momento così difficile, una congiuntura così particolare, economica e drammatica, se vuole metterci la faccia, a maggior ragione adesso che, insomma, gioca in un mercato come Los Angeles, che è un mercato, insomma, un po' l'ombelico del mondo per tanti motivi, insieme a New York, negli States. Con la ripartenza dell'NBA del 31 luglio ha una chance legittima di vincere il titolo e eventualmente da, con un anello al dito, da campione, con una squadra, una franchigia di tradizione come i Lakers, avrebbe un ulteriore megafono per farsi portavoce e veicolo di certe tematiche sociali. Io credo che, insomma, dopo la morte di Kobe Bryant, LeBron abbia mille motivazioni in più con quello che sta succedendo adesso per provare a inseguire l'ennesimo titolo, il primo a Los Angeles dopo quelli vinti a Miami e quello vinto nella sua Cleveland, e farlo diventare un messaggio che va oltre lo sport, un messaggio di speranza verso un'America più unita, un'America meno divisa tra ricchi e poveri, tra bianchi e neri, tra chi ha le possibilità di vivere il sogno americano a 360 gradi e chi onestamente quelle prospettive a tutto tondo proprio ancora non ce l'ha. Riccardo Pratesi, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi e alla prossima.